siamo in collegamento con l'avvocato Luigi Di Maio per parlare di uno spettacolo, un processo spettacolo che andrà in scena ai Solisti del Teatro, alla rassegna ai Solisti del Teatro, ai Giardini della Filarmonica, domani mercoledì 26 luglio. Il titolo è Il Bandito Giuliano, Portella della Ginestra, una strage di Stato. E allora Luigi, intanto benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie. Dimmi, vuoi che parlo io? Ti illustro un po' la situazione? Sì, allora intanto Nicola Bianco, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, mi ha spiegato che insomma che questo del processo spettacolarizzato è una tradizione che si porta avanti ai Giardini della Filarmonica in ogni edizione, ed è una data secca per ogni anno, sì, giusto? Sono 20 anni ormai. Ok. Allora ci racconti. Insieme ad avvocati abbiamo formato questa compagnia che affrontiamo i grandi processi. Ora, quello che ti volevo dire, sì, questo fa parte un po' di una trilogia che finora abbiamo fatto, cioè il primo è stato il processo ai frati di Mazzarino in Sicilia, quindi rapporti tra mafia e religione, il secondo un po' prima, 1892, lo scandalo della Banca Romana collegato al Banco di Sicilia, anche lì interventi della mafia con le istituzioni, omicidio del Notar Bartolo, che vabbè, è questo. E questo è il terzo appuntamento, sempre con la mafia, perché la storia del bandito Giuliano è strettamente collegato alla mafia e alle istituzioni. Sì, sì. E era la festa del 1° maggio, la sinistra avanzava, siamo nel 47, e naturalmente c'era stata la riforma della legge sui fondi agrari, ministro Gullo, e che era successo? Che i grandi latifondisti che si erano uniti alla mafia e anche a delle istituzioni avevano incominciato a lottare contro questa riforma, contro l'avanzata delle sinistre, quindi il 1° maggio e poi con la banda, soprattutto con la banda Giuliano, sì, che era proprio a servizio della mafia e di questi grandi latifondisti. E questa è stata la grande guerra. La cosa grave è stato il comportamento delle istituzioni, come poi non è che sia una novità in Italia, no? Con le istituzioni, carabinieri, polizia, a livello di ministri. Naturalmente non si è mai saputo chi fossero i mandanti di questa operazione, perché mandanti sicuramente ci furono, tant'è vero che Giuliano, che fu ucciso a tradimento dal suo luogotenente Pisciotta, tutto era stato concordato con i carabinieri, e i carabinieri l'avevano praticamente preso vivo, però lo fanno uccidere subito. Sì. E secondo l'avvocato di Pisciotta, anche Pisciotta avrebbe dovuto morire in questo finto conflitto a fuoco che poi avevano creato i carabinieri. Insomma, questo è un po' l'antefatto di questa situazione, una situazione molto grave, perché poi anche Pisciotta, che in fondo avrebbe parlato dopo essere stato arrestato, no? Condannato all'ergastolo, fu ucciso in carcere, sì, avvelenato. Sì. Senti, come è strutturato il processo sul palcoscenico? Sì, questo è il problema. Nel senso che io ho fatto sempre queste cose a mo' di processo. Naturalmente questa storia del bandito Giuliano non potevo riprendere il processo di Viterbo, perché sarebbe stato un po' difficile, ma anche un po' inutile, nel senso che c'erano stati questi della banda arrestati, chi diceva non ero stato io, ho fatto quello che mi diceva Giuliano, insomma il processo non avrebbe significato nulla. Allora io ho creato un talk show, nel senso che è un dibattito inchiesta dove degli avvocati attori interpretano chi la parte del senatore Macaluso, che naturalmente all'epoca ha partecipato in prima persona a queste battaglie insieme a Li Causi, chi l'onorevole Michele Pantaleone, poi un altro avvocato attore fa il procuratore della Repubblica, dottor Parlatore, che aveva partecipato al processo agli assise di Viterbo, perché lì fu mandato il processo per legittima sospicione. Poi c'è l'avvocato Giuseppe Bucciante, interpretato sempre da un avvocato attore, che era l'avvocato di Pisciotta. Poi c'è un intervento di Tommaso Buscetta, perché Buscetta rilasciò un'intervista su Giuliano, proprio su Giuliano, uno scrittore siciliano, e poi c'è la Maria Teresa Ciliacus, questa giornalista svedese che riuscì ad andare, cosa che non fu possibile agli organi di polizia dei carabinieri, andare nella tana dove stava Giuliano sulle montagne, dove stette per 3-4 giorni e quindi fece tutta un'intervista che poi fu pubblicata su vari giornali anche all'estero. Sì. E poi c'è, vabbè, c'è Salvatore Giuliano che fa soltanto un'apparizione, perché Giuliano naturalmente in quel contesto è già morto, fa un'apparizione simbolica perché legge una lettera che scrive a questa Ciliacus. Sì. E quindi è un talk show, è un'inchiesta che noi facciamo e si svolge praticamente in un bar in Sicilia negli anni 75, dopo che Buscetta ha iniziato a parlare con Falcone. Sì. E c'era già stato anche il film Salvatore Giuliano di Rosi. Salvatore Giuliano, sì, del 60 di Rosi, sì, certo, sì, il film era stato fatto. Sì, sì. Un film molto coraggioso, molto bello, molto preciso. Pensa che quando Rosi fece questo film, praticamente c'era al governo Scelba, sì, che fu uno un po' dei protagonisti di tutta questa vicenda. Senti, a livello invece documentale, qual è l'apporto di questo? Beh, documentale, io naturalmente mi sono informato su tutte le fonti, su tutte le inchieste che furono fatte all'epoca, sul processo, sì, i vari interventi, e quindi ne ho tratto un'inchiesta simbolica, fittizia, con questi personaggi. Che quadro emerge? Qual è il quadro emerge un quadro spaventoso, dove cioè polizia, carabinieri, istituzioni, mafia erano tutti quanti d'accordo nel non andare a fondo alla vera radice del problema, cioè i mandanti e i politici, perché era tutta lì la questione, perché non era solo un atto banditesco che non avrebbe avuto senso, sì, sì, sì, da sì. parte di Giuliano. Non so se sono stato chiaro. Sei stato chiarissimo. Mi chiedo se a distanza di tutti questi anni la pista politica se è stata individuata, dove ha portato. Ma guarda, vige ancora il segreto di Stato. È sempre stato detto che sarebbe stato tolto, ma mi risulta che allo Stato ancora questo non è avvenuto. Ed è, secondo me, molto attuale, perché naturalmente questa collusione di banditismo, politici, mafia, insomma è sempre presente nel nostro paese, tant'è vero che io il prossimo spettacolo, processo, inchiesta che voglio fare è quello su Sindone, la P2. Sì, sì, sì, sì, sì. Volevo chiederti anche se rispetto a queste date secche voi realizzate anche dei filmati della rappresentazione, che quindi potrebbero essere utilizzati. No, dei filmati no, perché diventa poi abbastanza complicato. In qualche processo l'abbiamo fatto, però per esempio lì alla filarmonica, capito, devi prendere uno schermo, devi proiettarlo, insomma diventa abbastanza difficile, cioè prendiamo delle cose che in sonoro. No, rispetto proprio allo spettacolo, se viene ripreso, se viene filmato, che quindi lo filmiamo noi così, okay, per il nostro ricordo, ma non è che nessuno, capito? No, quello no, che perché ci può essere l'idea di ospitarlo qui al radioteatro in versione audio. Certo, certo. E beh, qui sai, ci vorrebbe un organizzatore che pensasse a questo. Io già fatico molto a organizzare queste cose un po' poi da vedremo. Solo con i miei colleghi avvocati, no? Senti, mi stavi continuando. Ecco, sì, eh? Sì. Stavi continuando, infatti, quello che mi... Sì, quello che mi meraviglia è un po' che c'è molta ignoranza rispetto a questo avvenimento. Forse è chiaro che è un fatto che non riguarda insomma il passato, perché capito, la prima strage di Stato, la mafia, insomma l'abbiamo visto anche ultimamente, no? L'ultima sentenza che ha affrontato, l'ultima sentenza, quello, no, di Roma capitale, che ha che in fondo affronta sempre un po' gli stessi problemi. Sì. Sì, no. Poi c'è stata Brescia da poco, rispetto alla strage del 74 c'è stata. Sì, sì. Poi c'è il processo in corso della trattativa, che è molto, insomma, è una cosa molto permanente nel nostro paese, questa collusione tra le istituzioni, cioè tra la politica, partiamoci chiaro, politica, istituzioni e la mafia, il banditismo. Come se praticamente il nostro Stato regge soltanto attraverso l'appoggio di queste forze criminali, chiamiamole così, che diventa sempre più pericoloso e inquietante. Allora, ricordiamo l'appuntamento ai Giardini della Filarmonica. Sì. L'orario è le 21:30, se non sbaglio. Sì. Se non piove, perché all'aperto. Il bandito Giuliano, Portella della Ginestra, una strage, sì, di Stato, con attori, avvocati in scena, praticamente. Sì, avvocati che sono in scena. Benissimo. Allora, io ti ringrazio, a risentirci alla prossima. Grazie a te, sei l'unico che si è ricordato di questa cosa. Grazie a te. Ciao, a presto. Ciao. Ciao, ciao a te, ciao, ciao.